GR24, il sole 24 ore. Quota 300, lo spread scende ancora. Questa sera l'Eurogruppo con Bruxelles che avverte, un europeo su quattro è a rischio povertà. Torino-Lione a caccia di finanziamenti, Monti in Francia con Hollande, massima allerta per i manifestanti italiani fermati autobus alla frontiera. Bersani vincente, ora parte la campagna elettorale verso un governo di cambiamento, dice. Benedetto XVI in 140 caratteri, il Papa sbarca su Twitter. Buongiorno dunque dalla redazione, buona giornata da Anna Migliorati. Il giorno dopo le primarie il centro-sinistra volta pagina, ve l'abbiamo raccontato, ne parleremo ancora più avanti. Prima però torniamo alla notizia di oggi che arriva dai mercati, la sensazione c'era, ora ci sono anche i numeri, lo spread è arrivato a toccare pochi minuti fa una soglia, almeno psicologica, quella dei 300 punti, Deborah Rosciani. Per essere precisi adesso siamo a 298, quindi un'ulteriore discesa per il differenziale fra Italia e Germania sulla scadenza decennale, livelli che non vedevamo da marzo, quando arrivò il punto minimo di 280 punti base. Eravamo nel pieno appunto del varo della stagione delle riforme legate al governo tecnico e ben lontani invece da quella soglia altissima di 570 punti che vennero toccati nel novembre appunto di un anno fa. Le motivazioni che hanno portato a questa discesa sono molte, il mercato è un po' più sereno da qualche giorno, soprattutto da venerdì, da quando il Parlamento tedesco ha dato il via libera all'erogazione della nuova tranche di aiuti alla Grecia e proprio oggi l'Agenzia greca di gestione del debito, come stabilito con Unione Europea e Fondo Monetario, ha lanciato l'operazione di riacquisto di parte del debito sovrano del paese detenuto dagli investitori privati, il cosiddetto buyback, per il quale Atene non spenderà più di 10 miliardi di euro. All'aver toccato i 300 punti questa mattina ha dato anche nuova linfa agli acquisti sul mercato azionario. Milano sta spiccando il volo, segna più 1,43% dopo una partenza positiva ma molto più sottotono. Bene i titoli Mediaset più 5, Autogrill più 2,76, Unicredit più 2,63, stanno andando bene chiaramente tutti i titoli del settore bancario. Un po' più indietro ma positive anche le piazze europee, le altre piazze europee. Parigi in rialzo di un punto, Francoforte più 0,7, Londra più 0,32% e per ora Anna è tutto. E grazie a Deborah Rosciani. Continueremo a monitorare naturalmente lo spread, torniamo però anche a Lione in Francia perché qui si stanno incontrando il presidente del Consiglio italiano Monti e il francese Hollande. Sul tavolo c'è una questione cruciale, la Torino-Lione, la tanto contestata TAV in Italia, ecco perché anche l'incontro proprio a Lione. E allora andiamo da Marco Mussanè, buongiorno anche a te. Buongiorno a voi. Come sta andando, Marco? Beh, proprio in questo momento le due delegazioni ministeriali stanno firmando i 6 accordi bilaterali, anche se il più importante di tutti riguarda ovviamente la Torino-Lione. L'obiettivo per i due governi, per il Premier Monti e per il Presidente Hollande, è quello di ribadire con forza la validità di questo progetto e la necessità che l'Unione Europea aumenti il suo finanziamento. Ricordiamo che l'investimento necessario per il tunnel di base, per la sezione transfrontaliera della Torino-Lione è di 8,5 miliardi, l'accordo tra Francia e Italia è che l'Italia ne stanzi 2,9, la Francia 2,2, il 3,4 rimanente, cioè il 40%, dovrebbe appunto arrivare dall'Europa. Grazie anche a Marco Mussanè, anche con te ci risentiremo, ma tra l'altro Lione è anche blindata in queste ore perché si temono i manifestanti italiani, stretti i controlli alla frontiera dove tra l'altro sono stati fermati 6 autobus che trasportavano appunto i no-TAV italiani. A Lione allora c'è anche Maria Chiara Voci. Sì, buongiorno da Lione. È in una città blindata, sorvolata dagli elicotteri, quella che sta accogliendo oggi il premier italiano Mario Monti e il presidente francese François Hollande. In centro, attorno alla prefettura, al giorno in cui si svolge il summit, è stata istituita un'ampia zona rossa. Nel quartiere sono state chiuse tutte le stazioni della metropolitana e gli edifici dei dintorni sono stati setacciati dalle forze dell'ordine per timore di attentati da parte dei militanti no-TAV. I rappresentanti del movimento che si oppone all'opera del resto stanno raggiungendo numerosi Lione, dove già da venerdì è in corso un press summit. Questo pomeriggio è previsto un presidio di protesta nella zona di Prosto, a 2 chilometri circa dalla prefettura. Non è invece autorizzato successivo corteo. altissima da questa mattina all'alba, la sorveglianza anche alle frontiere, dove vengono respinte le persone segnalate dalle forze dell'ordine. Al traforo del Fréjus la gendarmerie controlla a tappeto autobus e bagagliai. Dei 12 bus notar partiti dalle valli questa mattina, 6 sono stati bloccati. È stato anche fermo per un'ora a Modan il TGV è partito da Milano e diretto a Parigi. E per il momento è tutto da Lione, restituisco la linea. Grazie anche a Maria Chiara Vocci. Europa, dicevamo che questa sera tornerà a riunire l'Eurogruppo e sul tavolo ci saranno anche numeri che pesano. Gigi Donelli, buongiorno anche a te. Sì, buongiorno. Numeri che pesano davvero tanti. Da una parte, infatti, possiamo collegarci anche al commento, al servizio di Moussanet da Parigi, ci sono i soldi appunto per i finanziamenti, il Fondo Sociale Europeo è critico in questa fase. Non dimentichiamolo, siamo nel pieno della trattativa per il rifinanziamento del grande budget 2014-2020, insomma il futuro dell'Unione. Ecco, i numeri naturalmente, alcuni dei numeri che si porteranno all'incontro di questa sera è anche quello della crisi e della povertà. Proprio questa mattina è uscito da fonte Eurostat il numero di 119 milioni sono le persone minacciate di povertà o esclusione sociale nel 2011, quindi un dato che si riferisce all'anno passato che non può che peggiorare, perché basta incrociarlo con quelli che sono i numeri della disoccupazione. Ecco, trovare dunque i finanziamenti, trovare anche lo stimolo per crescere, beh, un appuntamento importante è proprio giovedì di questa settimana, quando Bruxelles dovrà varare il piano per i giovani, il piano lavoro per i giovani. Solo venerdì scorso abbiamo registrato il record storico della disoccupazione giovanile in Europa. Da giovedì, insomma, ci si aspetta molto perché ci sia davvero un'inversione di corso. La speranza è che fase austerity si vada a concludere e fase dunque di finanziamenti di sostegno all'occupazione si apra, cominciando magari dallo stesso giovedì. Grazie anche Gigi Donelli. Uno dei mercati che ha subito più ripercussioni dalla crisi è indubbiamente quello dell'auto. Male il 2012, ora si guarda proprio al prossimo anno e intanto a presentare un bilancio questa mattina a Bologna il centro studi Promotor, Gianprimo Quagliano. Il 2012 intanto chiuderà molto male, 1.400.000 immatricolazioni, cioè sul livello del 1979. E con un calo rispetto ai livelli antecrisi del 42%, un calo molto forte, e c'è un differenziale rispetto al calo del resto dell'economia reale intorno ai 22 punti. Questo è dovuto a tante ragioni, ma soprattutto quello che ha determinato il tracollo del 2012 è stato il fatto che c'è stato un grande crollo della fiducia, che è partito nel 2011 quando l'Italia è stata messa sotto attacco dai mercati finanziari e ha dovuto adottare delle politiche fortemente recessive. Però questo andamento negativo si è arrestato nel luglio scorso e se la fiducia rimarrà sui livelli attuali e non scenderà ulteriormente e se dalle elezioni verrà un segnale positivo, noi pensiamo che ci sia un ritorno di fiducia che consenta di annullare una parte del differenziale di maggior costo in termini di vendite che il mercato dell'automobile sta subendo rispetto al resto dell'economia. Quindi questo potrebbe voler dire un 2013 con 1.550.000 immatricolazioni, che è ancora un livello lontanissimo dai livelli antecrisi, ma per ritornare sui livelli antecrisi occorre che riparta l'economia. Grazie anche a Gianprimo Quagliano, Centro Studi Promotor. E andiamo anche a Taranto, perché ci sono novità anche per l'Ilva. Raffaella Calandra. Hanno gli anni suoi, 30-35 anni. Non tutti però, siamo presi male da sta storia, ma adesso ci fa paura pure salire. Sul molo di Taranto, ancora sotto sequestro, i gruisti dell'Ilva ora hanno paura. Hanno paura per quelle macchine vecchie, come quella dove è morto il giovane collega, per l'assenza dei cavi anti-uragano. Hanno paura di questa precarietà ancor maggiore che sentono ora che tornano al lavoro dopo la tromba d'aria. Per 1.000 operai, però, soprattutto dell'acciaieria 2, si prospetta una cassa integrazione. Un'incertezza che si va ad aggiungere a tutte le altre sul futuro stesso dell'Ilva. Oggi il decreto del governo sarà sarà al Quirinale e una volta pubblicato in Gazzetta prenderà forma ufficiale pure quel conflitto costituzionale che è già all'orizzonte con i magistrati di Taranto. Il capo della procura Sebastio ne discute in queste ore con il procuratore generale e non si esclude pure un duplice ricorso alla Consulta da parte dei PM e pure del GIP Todisco. Ma nel frattempo l'azienda potrebbe continuare a produrre, anche se sul suo capo pende tra l'altro anche la spada di Damocle dei risarcimenti chiesti da cittadini ed enti, oltre 6 i miliardi di danni stimati dalle associazioni ambientaliste, tutte nubi intorno alle ciminiere dell'Ilva che a detta del suo stesso avvocato potrebbe però non avere i soldi necessari anche per far fronte alle prescrizioni del decreto, vista la permanenza del sequestro. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Riparte l'attività esplorativa onshore dell'Eni in Libia. L'annuncio poco fa da parte della compagnia petrolifera. L'attività, ha fatto sapere, è ripresa attraverso la perforazione di un pozzo esplorativo nel bacino di Sirte, a circa 300 km a sud di Bengasi. Tutto in 140 caratteri. Il Papa sbarca su Twitter. Questa mattina è il via ufficiale, anche se bisognerà attendere il 12 dicembre per il primo intervento. Non sarà direttamente lui a scrivere con il computer, ma proverà, assicura il suo staff, che si occuperà di inserire i messaggi, tutti gli interventi che d'ora in poi compariranno su Twitter. @pontifex_it, questo l'account ufficiale in italiano. Nelle altre lingue, in tutto per il momento 7, tra cui l'arabo, cambierà solo la sigla del paese. Per il primo tweet del Papa, però, bisognerà aspettare qualche giorno. Il 12 dicembre, festa di Nostra Signora di Guadalupe. In quell'occasione sarà lo stesso Benedetto XVI, che non usa il computer e scrive i libri a penna, anzi a matita, a debuttare, per poi affidare il compito ai suoi collaboratori. Inizialmente il Papa risponderà a domande a lui indirizzate su questioni di fede solo in occasione dell'udienza del mercoledì, ma non è escluso che in seguito la frequenza degli interventi possa aumentare. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. All'estero continua a livello internazionale il dissenso verso Israele dopo che Netanyahu ha deciso di costruire 3.000 nuovi alloggi per coloni in Cisgiordania e a Gerusalemme Est. Un colloquio con gli ambasciatori israeliani è quanto avviene oggi a Londra e Parigi. Al centro degli incontri il bisogno dei due paesi europei di esprimere la loro protesta di fronte all'annunciato piano del governo Netanyahu di costruire 3.000 nuovi alloggi in Cisgiordania e Gerusalemme Est. La decisione israeliana arriva all'indomani del voto all'Assemblea dell'ONU che accorda alla Palestina un posto di Stato osservatore non membro alle Nazioni Unite. Una scelta, quella di Israele, che sta scatenando le più dure reazioni internazionali. Ieri, secondo Arez, Francia e Gran Bretagna sembravano orientate a richiamare i propri ambasciatori da Israele. La notizia è poi rientrata, ma resta molto duro il monito internazionale, ignorato però da Netanyahu. Moniti ribaditi oggi da Catherine Ashton a nome dell'Unione Europea e dallo stesso segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon, secondo il quale i nuovi progetti annunciati dal governo israeliano sono illegali e rappresentano un colpo mortale alle residue possibilità di arrivare alla soluzione dei due stati, premessa della pace. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È arrivato il freddo, prima ondata di stagione, è già ribattezzata Attila. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Eccoci siamo, arriva il grande freddo, tremate. Questa volta, per spaventarci un po' di più, l'hanno chiamato Attila, l'ultimo flagello meteo. Aria fredda di origine polare, battono le agenzie, mettendoci in guardia anche dal vento, un vento glaciale che accentuerà ancora di più il freddo percepito. Un'emergenza, insomma, che rimbalza come un tantam dalle radio alle TV, dai siti ai giornali, anche se poi uno guarda il calendario e vede che è dicembre, e in dicembre guanti, sciarpe, berretti e babbi natali non sono poi così strani, come conferma il colonnello Giuliacci. Ma direi che il freddo di questa settimana sarà senz'altro normale, anche se le temperature saranno al di sotto della media. Sotto la media. Oddio, siamo proprio in inverno pieno. Senz'altro sarà una settimana invernale, perché avremo piogge, neve, freddo, gelate. Gelate, freddo, ma cosa sono mai rispetto all'IMU o agli alti e bassi dello spread dei mutui? Quelli sì percepiti. È arrivata la bufera. è arrivato il temporale, chi sta bene, chi sta male, e chi sta come chi par. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Di tutto questo abbiamo già parlato, riprendiamo allora dal giorno dopo le primarie del PD, Elisabetta Fiorito. Sì, dopo le primarie subito il pensiero è al futuro governo del paese, Pierluigi Bersani non perde tempo, il giorno dopo la vittoria al ballottaggio e commenta così l'avventura delle primarie, sentiamo il segretario del PD. La pagina democrazia, una bellissima avventura. E che la prossima avventura è il governo, ma il governo è il cambiamento. Quindi adesso ci si mette a lavorare per allestire un profilo di cambiamento, un governo del cambiamento. Questo sarà il lavoro per i prossimi mesi. Il punto di Stefano Folli. Non bisogna. Elisabetta. Sì, ecco appunto, Bersani dicevo è in partenza per la Libia, l'Italia deve riprendere il ruolo perso in questi anni nel Mediterraneo, dice il segretario PD, come prima cosa voglio riprendere il filo, l'Italia deve avere una sua visibilità, un suo profilo perso totalmente in questi anni rispetto a quello che dovremmo avere. Lo sconfitto Matteo Renzi conferma, darò una mano e per quello che mi riguarda da militante del Partito Democratico e da sindaco di Firenze. Il risultato politico c'è comunque, spiega Renzi, sono dispiaciuto perché ad un certo punto ci ho creduto, a metà ottobre i sondaggi erano fantastici. Sono felice comunque di aver fatto questa battaglia e di averci provato. Faccio i miei complimenti a Bersani e per il momento qui da Roma è tutto. Studio. Il punto di Stefano Folli. Non bisogna esagerare l'importanza delle primarie, ma certo rappresentano una pagina positiva per la politica e soprattutto per il centro-sinistra. Ora le domande sono due. La prima riguarda la capacità di Bersani di gestire il rinnovamento, di aprirsi alle suggestioni di una sinistra più liberale e meno legata ai rituali di un vecchio ceto politico. È facile darsi questa immagine rinnovata in vista delle elezioni, più difficile farne l'asse di una reale rigenerazione. La seconda riguarda il centrodestra. È illusorio credere che poiché ha vinto la sinistra di Bersani, allora Berlusconi e i suoi ritrovano quasi per magia uno spazio politico che hanno perduto. La verità è che quel gruppo dirigente, se resterà ancorato a Berlusconi, non sarà in grado di competere con il centro-sinistra. E in Italia si creerà un grave squilibrio, perché il nostro sistema, pur malconcio, ha bisogno che accanto a una sinistra più moderna ci sia anche una destra che abbia saldato i conti con i suoi errori antichi e recenti. E oggi al via ci sono altre primarie, quelle del Movimento 5 Stelle. 4 giorni per scegliere i futuri parlamentari grillini. È partito oggi e si concluderà giovedì il voto su internet per le liste elettorali del Movimento 5 Stelle. Primarie online dunque, ma i grillini preferiscono chiamarle parlamentarie, con cui si comporranno le liste elettorali di tutta Italia senza intermediazione dei partiti. Le istruzioni per l'uso sono pubblicate sul blog di Beppe Grillo. Le votazioni si terranno dalle 10 alle 17 di ogni giorno. I votanti potranno attribuire 3 preferenze ai candidati della loro circoscrizione. Un voto a costo zero individuale, scrive Beppe Grillo in un post pubblicato sul suo blog in cui avverte chi pilota è fuori, spiegando che bisogna evitare la replica delle congreghe partitiche su base locale create per favorire uno o più candidati a scapito degli altri. Insomma, avverte Grillo, chi cercherà di farlo sarà diffidato e escluso dalle votazioni. Ma intanto cominciano già le prime polemiche, con il consigliere ferrarese Tavolazzi espulso dal movimento che accusa Grillo e Casaleggio di voler gestire in futuro tutti i fondi parlamentari. Anche se per il momento nessuno dei due ha espresso la volontà di candidarsi alle elezioni. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E dalla politica al calcio, le tragedie non hanno fede, così il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha oggi condannato lo striscione esposto dalla curva juventina nel derby col Torino, con scritte offensive nei confronti della memoria del grande Torino, scomparso nella tragedia aerea di Superga del 4 maggio 1949. Allora, sentiamo Agnelli. Ci sono alcuni striscioni che sono stati esposti durante la nostra partita, ma striscioni che vengono esposti generalmente in tutti gli stadi d'Italia, che contengono insulti gratuiti, sono assolutamente da condannare. E a me questo spiace vederlo, perché solitamente in uno stadio L'ambiente all'interno di uno stadio lo si nota proprio dalla parte della curva, la parte più attiva, sono loro quelli che riescono effettivamente a dare la personalità all'interno di uno stadio, però credo che la supremazia del tifo sicuramente non si manifesti ricordando le tragedie altrui, perché le tragedie dal mio punto di vista non hanno nessuna fede. Parole apprezzate anche da Sandro Mazzola, grande ex campione dell'Inter e della Nazionale, figlio di quel Valentino che del grande Torino fu capitano e leader. Ma ieri c'è stato anche il calcio giocato con tutte le big che hanno ottenuto il passo della Juventus. Carlo Genta, buongiorno. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. 39 gol, record stagionale per una 15ª giornata in fondo inutile ai fini degli equilibri dell'altra classifica, perché vincono tutte: la Juventus sabato il derby, il Milan il giorno prima non senza qualche polemica a Catania ma confermando il suo momento in fondo positivo. Impressiona il Napoli che sotterra il Pescara, probabilmente in questo momento la peggior squadra della Serie A. Vince come fanno le squadre in difficoltà, in crisi forse, in fondo l'Inter, cioè con un autorete in casa con il Palermo. Vince anche la Lazio, l'unica battuta d'arresto, mezza battuta d'arresto tra le prime della classe, quella della Fiorentina, che pareggia in casa comunque contro una buona Sampdoria. La Roma ha sempre bisogno di complicarsi la vita, va sotto a Siena e poi la risolve grazie a Mattia Destro, uno dei lampi d'azzurro di questa domenica, insieme ad El Shaarawy, di nuovo e costantemente a segno, insieme a Marchisio e Giovinco nella Juventus. In coda è importante il passo del Bologna, che batte l'Atalanta, mentre il Genoa si conferma sempre più in difficoltà, perdendo in casa anche con il Chievo. Di tutti questi temi e di molti altri parleremo tra poco alle 14 in Tutti Convocati. Grazie Carlo, allora appuntamento fra poco. Noi invece ci fermiamo qui, Gianmarco Ferronato in regia, Danna Miglioratti ancora una buona giornata e anche GR24, vi ricordo, torna alle 14. GR24, il sole 24 ore, direttore Fabio Tamburini. GR Spettacoli. Buona giornata, ben ritrovati per una nuova edizione di GR Spettacoli. Presentate oggi tutte le iniziative in collaborazione con il Teatro alla Scala per la serata inaugurale della stagione 2012-2013. La sera del 7 dicembre la stagione si aprirà con il Lohengrin di Wagner. Ci colleghiamo subito in diretta con il Teatro alla Scala con la nostra inviata Adriana Fracchia. Adriana, buongiorno. Sì, buongiorno, è quasi tutto pronto qui alla Scala per la grande prima del 7 dicembre del Lohengrin di Wagner, tutto pronto, però sappiamo che questo è un anno di grande crisi economica e quindi mai come ora è importante l'alleanza con i privati, perché i fondi pubblici non bastano a un'eccellenza come la Scala, e allora oggi sono stati presentati tutti i grandi sponsor di questa iniziativa, dalla RAI che seguirà la prima con 5 ore di trasmissione con i sottotitoli su Rai 5 e poi su Rai HD canale 501. Lo spettacolo verrà anche proiettato in 100 sale cinematografiche in tutta Italia, in 300 in Europa e in 200 negli Stati Uniti, Canada ed Australia. Main partner della serata inaugurale sarà Edison, che era appunto presente oggi nella persona di Bruno Lescoeur, che ha parlato di questo sostegno in un progetto ecologico e culturale alla Scala. L'azienda compie 130 anni di vita e per prima diede la luce elettrica alla Scala nel 1883 e illuminò era anche qui la prima di Sant'Ambrogio con l'energia pulita delle sue centrali storiche sull'Adda, che sono un vanto dell'ingegneria italiana. Poi c'erano tutti gli altri sponsor presentati oggi: la Rolex, la BMW Italia, la JT International e poi la Kimbo, la Gobino e la Bella Vista e anche Ferrarelle. Tutti questi appunto per sostenere questa grande iniziativa che è appunto la prima della Scala, una prima della grande tradizione. C'è stata qualche polemica sul fatto che sia stato scelto Wagner e non Verdi per la prima, ma il sovrintendente Lisner ha risposto con le parole del presidente Napolitano, che ha detto è una polemica patetica e futile. E dalla Scala è tutto. Grazie ad Adriana Facchia. Sempre in tema, Intesa San Paolo ed Eni hanno donato alla Scala due manoscritti di Verdi, delle Falstaff e dell'Ave Maria, insieme ad un telegramma con cui il maestro si congratulava con Arturo Toscanini per la prima dell'opera, il Falstaff stesso. L'acquisto ammonta a 300.000 sterline. fine. Da domani sarà in scena al Teatro Quirino di Roma, cambiamo argomento, la trasposizione teatrale di Rain Man, il noto film con Dustin Hoffman e Tom Cruise. Interpreti principali Luca Lazzareschi e Luca Bastianello. Il testo teatrale approfondisce il problema dell'autismo, come spiega il regista Saverio Marconi al microfono di Elisabetta Fiorito. Ho saputo che c'era questa edizione teatrale di Rain Man, avevo visto il film, che mi era piaciuto naturalmente molto, però avevo trovato che il film non spiegava molto bene qual era il problema degli autistici. Quindi ho cercato di fare questo spettacolo spiegando bene, cercando di far capire bene che cos'è l'autismo, che è una sindrome molto diffusa purtroppo, perché un bambino su 150 ha questi sintomi, quindi bisogna sapere come affrontarli. Nello stesso tempo però è uno spettacolo anche divertente, emozionante, ecco, si può anche ridere, però poi si capisce che c'è sotto un problema. Il nostro compito è proteggere tutti i bambini del mondo. Tempo di Natale e di new entry questa settimana al cinema, secondo i dati Cinetel. È proprio questo il nuovo cartoon della DreamWorks, Le cinque leggende di William Joyce e Peter Ramsey, a portarsi subito a casa il primo posto con oltre 2,5 milioni di euro, scalzando i vampiri di Breaking Dawn parte 2, che passano così al quarto posto. Al secondo posto Il peggior Natale della mia vita, con Fabio De Luigi e Cristina Capotondi. Al terzo Una famiglia perfetta di Paolo Genovese, protagonista Sergio Castellitto, e infine al quinto posto un'altra new entry con il film Di nuovo in gioco di Robert Lawrence, protagonista Clint Eastwood. Ed è tutto per questa edizione di GR Spettacoli, un saluto da Laura Bettini.